quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Di giovani attori, di pizze fredde, di calzoni, notte di sogni, di coppe, di campioni. Io sentivo Venditti, che adoro come cantautore, notte prima degli esami, amici mai, si dice di sinistra, ma non ha parlato di lavoro. Ragazzi, l'emergenza in Italia non sono i matrimoni gay, è la disoccupazione, perché eterosessuali e omosessuali vorrebbero lavorare. Ma non te devi proprio lasciare, un attimo, nostra Claudia, non tremare, non ti posso far male. Ma scusa, io faccio il politico come te, io vado a lavorare, ho la mia arte, ma siamo noi che ti diamo i soldi per esistere. Perfetto. Grazie alla democrazia. Capito? Perfetto. Che mi vedo, e io penso, ruspe in azione su cosa? Penso di essermeli guadagnati. Ma ruspe in azione su cosa? Scusa, ma perché ti senti? Ma c'hai la sonata? Forse cambiati, certo, un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Perché ruspe in azione su dai, cosa mi devi dire? Mi scusi. Su cosa? Su esseri umani? Su edifici? Ma le ruspe? Ma le dà fastidio la ruspa? No. Mi dà fastidio, la ruspa usata in quel lei, modo? Le buche nell'asfalto, la ruspa come per le gente coppe, che va a lavorare, con le margherite? Non lei per sotterrare le persone. Vabbè. Allora, dai, andiamo avanti. Dai, Salvini, allora. Quando ha finito io parlo, altrimenti no, facciamoci una cantatina. Ma sì, dai, ma facciamoci una cantatina. Notte di sogni, di coppe di campioni, la coppa dei campioni. Che bei tempi quando c'era la coppa dei campioni, mica la Champions League, la coppa dei campioni. Pure con Venditti a litigare. Oh, non t'allargà, Venditti a Salvini ieri a Ballarò. Non t'allargà. Allora, c'è questa cosa delle ruspe e questa cosa delle scritte di Salvini, le felpe, no? Si presenta in TV con le felpe, con tutte queste scritte, ruspe in azione, eccetera. Addirittura c'è Loris Mazzetti, che è un dirigente della RAI, che scrive sul Fatto Quotidiano, che propone oggi andrebbe vietato a Salvini, vietato, esibire queste scritte in TV. Vietarle. Che viene voglia di cantare. Forse cambiati, certo, un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Non so, e che vi devo dire? Ditemi la vostra al 349-238-6666. Amici, reduci dal ponte che noi non abbiamo fatto e voi sì, debosciati, i nostri. Non l'ha fatto Paola Saluzzi, per esempio, il pontone, eh? La nostra Paoletta Saluzzi non l'ha fatto lì in onda a combattere tutti i giorni, eh? Sempre, noi figli da corazzieri abbiamo fatto il ponte così. Ecco, Paolina, Paolina, Paolina, Paolina spiritosa, Paolina fiore di rosa. Che meraviglia. 2015, ecco, evviva le rosse, torna, ma diventa evviva la Paola. Un po' più cruda questa. Paola Saluzzi e Paola Saluzzi, special guest Paola Saluzzi e altri pettizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Eccola lì. Questo non è vero, ma che iniezione di wow. Tra l'altro i due tizi sono il sottoscritto Alessandro Milan, che vi saluta, buongiorno, benvenuti a tutti. E come sapete, di solito il mercoledì noi abbiamo il direttore di Vanity Fair, che però è in viaggio da New York, mi ha detto, sono in aereo, scusami. E tra l'altro mi ha lasciato con questo messaggio, dice: guarda la copertina di Vanity Fair perché ti piacerà domani. E in effetti c'è una Sofia Vergara vestita di schiuma. Vi dico solo. Siamo arrivati finalmente. Vestita di schiuma. Così. Settimane fa. Però, insomma, c'è un altro grande amico del Parlamento che è il nostro. Fai finta che non sia interista, Paola Saluzzi. Lascia perdere. È Alessandro Robecchi, il comunistone. Il nostro comunista. Buongiorno, Saluzzi. Buongiorno, vabbè. Buongiorno, Alessandro. Buongiorno anche a Milan. Dillo più forte, a Milan. Dillo più forte, con più orgoglio. Milan, buongiorno. Con più orgoglio, Milan. Te lo faccio dire 5 volte ogni volta che vieni qui, per punizione, così a urlarlo. Ma io lo dico spesso quando vinciamo il derby, tranquillo. Mamma mia. La mattinata si preannuncia molto interessante. Mamma mia. Vabbè, sì, poi adesso che parliamo di Salvini, qua con il comunistone, vabbè. Urca. Sì, vabbè, dai, apriamo il Parlamento, dai, apriamo il Parlamento. È ufficiale, il Parlamento è aperto. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Anche il ministro Boschi è convocata col suo caffè. Ci vediamo più tardi, noi l'attendiamo. Qua. Paola Saluzzi offre un caffè al giorno, ma poi non. Cioè, offre, no, va a bere il caffè al giorno, ma poi non si è mai vista qua. Ma arriverà. Allora, dai, che ne dite? Robecchi, tu vietereste a Salvini di sfoggiare queste ruspe in azione con Venditti? Ma ruspe su cosa? Avrei due cose. La prima è, intanto invitiamolo un po' di meno, perché Salvini sta in TV più della previsione del tempo, e quindi lamentarsi di che magliette mette, se sta sempre lì, mi sembra eccessivo. Censura però, su Salvini. Ricordo che una volta, sommessamente, andando a fare un collegamento in TV, credo alla Rai, ma non mi ricordo, avevo una maglietta con uno stemmino, la marca, no? Un coccodrillo, oppure uno switch della Nike, sai, non ricordo quale marca fosse. E ti hanno accusato di pubblicità? No, mi hanno fatto cambiare la maglietta perché non si poteva vedere il marchio. Ed è andato a torso nudo, incredibile. Mi hanno gentilmente prestato una camicia. Una volta invece, andando col mio computer, mi hanno messo dello scotch sulla mela massicata. Vabbè, ma tu sei. Cioè, arrotondi così? Arrotondi con le pubblicità così? No, non ho capito quando metti. Io non possa mettere una maglietta con un coccodrillo e quello possa andare in giro con la scritta viva le ruspe, Trento, Trieste, Udine, Milano. Vabbè, Trento però, Trento, Trieste, però. Udine, Milano, chi se ne frega. Ma quello gli serve per ricordarsi dov'è. Robecchi è così, da sfoggio al suo essere autore, insomma, sapete che fa tante cose. Colorito e colorato. No, non so, Paola, tu gli faresti un bello screening quando arriva in TV? Faccia vedere Salvini come vestito? No, onestamente. Certo, capisco che forse le ruspe siano state il passo più avanti rispetto a Trento, Trieste, Bolzano, Palermo, eccetera. Sì, abbastanza. Insomma, un po' più in là, mettiamolo in questi termini. Dopodiché lui ha detto, ma perché le buche per strada come si riempiono? E lì per un attimo ho avuto tutta la mia solidarietà, perché ho fatto andare un attimo in giro per Roma e dovrebbe esserci una ruspa al minuto. Però, insomma, voglio dire, è Salvini, è così. Il marchio è lui. Il timore che adesso la ruspa stia per diventare proprio il simbolo della Lega, secondo me è poco. Starà studiando qualcosa, perché dai, c'è questa roba della ruspa, che poi è nata con la questione dei campi rom, parliamoci chiaro, no? E adesso che cosa simboleggerebbe, secondo te, Robecchi? Cioè, perché adesso ha superato la questione dei campi rom, no? La ruspa come simbolo di che? Di ricostruzione? Di che cosa? Anch'io. Ma con la ruspa però non si costruisce, casomai si demolisce. Sì, demolire. Per ricostruire, non vorrei che fosse un altro rottamatore, perché anche quella roba lì di rottamare non è che porta fortunissima, non lo so. Ci arriviamo ai rottamatori, arriviamoci subito. È tornato. Lui, devo dire, allora, ormai non so più se l'incantatore di serpenti De Luca, quello che quando parla io guardo così ammutolito, oppure l'imitazione che ne fa Crozza, non ho capito quale dei due sia più straordinario. E qui Piero Becchi mi sa che un po' di zampino ce lo mette. È una bella gara. Comunque personaggi Pinocchietti. Me lo immaginavo. Noi abbiamo invitato De Luca, non è venuto né ieri né oggi, lo stiamo inseguendo per la questione di Rosy Bindi. Io me lo immagino al mattino e lui mi immagino già la risposta. Rosy Bindi, ma le pare alle 8:15 mi fa parlare di Rosy Bindi, non ho ancora preso il caffè, Milan, mi faccia una cortesia. Beh, anche Milan va forte però, no, vabbè. Attenzione. Sentite Crozza De Luca su Bindi, Sì, Rosy Bindi oggi pomeriggio lei ha detto Rossellina. Rosy Bindi, Rossellina, personaggetto. Ma non è un personaggetto. Presidente della commissione parlamentare della cialtroneria. No. Se l'antimafia sapesse che se adesso mi sospendono, mi mandano via, in campagna si torna al Cretaceo. Ma non esatto. Mandatemi pure via. Ma non è vero. E poi dai rubinetti ricominciano a uscire i serpenti. Ma no. Neri. Ma che serpenti? Grandinano delfini. Paola, non è male. Effettivamente. È meraviglioso. È lui. È lui. Robecchi, è lui. È lui. Invitato fisso da Floris, no? Ormai è lui, è Crozza. Vabbè, però, allora, le ruspe abbiamo stabilito che Robecchi qualche controllino glielo farebbe alla maglietta prima di... Visto che lo fanno a lui. No, anche una bella maglietta con la laurea albanese. Non è male. Con la laurea albanese, sì, quello era il trota. Era il trota. Vabbè, invece c'è l'altra questione, sì, che prende tutte le prime pagine dei giornali della querela di De Luca a Rosy Bindi. Mamma mia, ragazzi. Paola, l'ha detto, l'ha fatto. Stanno litigando nel PD, sai che novità? Un pochetto, sì. Un cicinin. Ma adesso ma deve finire con questa, con la querela pure. Ma la Bindi, sentite, in realtà Rosy Bindi pretendeva altro che querela, voleva qualcos'altro. Sentite Rosy Bindi. Crede davvero che Renzi le chiederà scusa? Guardi, non lo so se lo farà. Io però sento di poter dire che quello che è successo nei confronti della mia persona merita un risarcimento. Hai capito, Paola Saluzzi? Lei voleva risarcimento così a Piazza Pulita. Merita un risarcimento nel senso... Sì, scuse. Scuse pubbliche e formali. Il termine, scuse pubbliche e formali, insomma tutte queste cose, ecco, è chiaro. E adesso siamo alle discussioni, al lancio degli oggetti, delle suppellettili dentro casa, perché la verità è questa, insomma, no? Quindi è chiaro che De Luca, ribadiamo, l'aveva detto, e dopodiché... senza cappello da sceriffo, ma si è presentato bello sano, quindi a Napoli, a presentare la sua denuncia. Adesso comincia la danza, perché dopo tutto ciò che è accaduto adesso comincia ad accadere il di più che già sapevamo, ma sì, cerchiamo di capire che cosa, perché ora bisogna capire chi firmerà la sospensione di De Luca, e se ci sarà chi sarà al posto. No, ma tra l'altro dico se ci sarà, non lo dico a caso, perché oggi c'è un'interessante intervista a Raffaele Cantone su Repubblica. Conosci Robecchi, Cantone? Sì, no, certo, E attenzione, dice due cose interessanti. La prima, dice Rosy Bindi, che stimo per il lavoro antimafia, comunque su questa cosa dell'impresentabile ha fatto un errore istituzionale, proprio ha fatto un passo falso, un errore. E poi dice, io non sono così convinto che la legge Severino debba essere interpretata nel modo per cui De Luca debba essere sospeso prima dell'insediamento. No, ma è una questione molto tecnica, dice. Secondo l'interpretazione della Severino dovrebbe essere sospeso non prima che si insedi, ma quando entra in funzione come governatore, certo, e quindi prima nomina un vice, fa una giunta, esatto, e poi lo sospende. Esatto. Sì. E quindi se nomina il vice rimane in carica il vice. Già De Lucam, diciamo. No, adesso sei già De Lucam e sono interpretazioni. Comunque, certo, sono interpretazioni, appunto. Sono interpretazioni. Bravo Milan, giusto. Infatti Cantone dice, certo, Renzi deve far fondo a tutta l'avvocatura dello Stato che ha. Ecco, magari non mandi quella che però, ha la consulta. Però io ti faccio questa domanda, dico questa cosa. Ma non è meraviglioso vedere il rottamatore, quello che arrivava con la novità, quello che cambiava verso, quello che rivoluzionava tutto, che adesso deve affidarsi a dei leguleie e degli azzeccagarbugli per tenere lì finché nomina la giunta un vecchio potentato che sta lì da quando c'erano, ma sai perché? Piramidi. Sai perché? Beh, ma io se fossi un elettore di Renzi che volevo la rottamazione, De Luca vorrei rottamare. Ho capito, ma sai perché? Perché così ha vinto, con Emiliano ha vinto che non è renziano, con De Luca ha vinto che non è renziano, dove ha mandato Cacciari, le ha definite da noi le renzine, come esatto, la Moretti in Veneto, esatto, ha perso. E quindi doveva, o la Paita anche, perché non è una renzina, ma insomma. Cioè, quindi questo è il dato politico, che il Renzi contro tutti sulle regioni non funziona. No, Paola Saluzzi, io l'ho vista così. Questo le regioni. Accende nuovi interessi, come dire, no? Spalanca nuove porte, accende nuovo interesse e fa dire al Partito Democratico, ha vinto il Partito Democratico, inequivocabilmente i candidati non erano, diciamo, puramente renziani, ma noi aspettiamo lunedì c'è la direzione di partito. Ah, la resa dei conti. La direzione di partito farà sì che si capisca di più e meglio che cosa andrà ad accadere, anche ovviamente con la questione Campania, che inequivocabilmente c'è. Sì. E non ci si può nascondere dietro un dito, insomma. Sì, però... E saremo lì dimmi Alessandro. No, ma questo dire sì. Questo che... Cioè, che De Luca, una volta eletto, avrebbe avuto dei problemi di insediamento. Si sapeva. Non è che lo scopriamo stamattina. Ma per lo sapeva anche Renzi, ovviamente. Lo sapeva anche Renzi. E nonostante questo, l'ha candidato, l'ha sostenuto. Allora io dico. Perché che vinceva. Ha vinto della legalità. Ah, vabbè, ma allora se si scoprisse domani mattina che vince Nosferatu, allora votiamo tutti adesso. A Nosferatu. De Luca non che è dice? Nosferatu. Adesso, dai, Nosferatu, Nosferatu. De Luca non è Nosferatu. Allora ha presentato. Più cattivo di Nosferatu, ma non è Nosferatu, è più cattivo di Nosferatu. Dai, su Nosferatu, Nosferatu, per usare un francesismo, gli fa una pippa. Insomma, esatto. No, vabbè. Vabbè. Sono le 6:40. Scusate, rientro in me. Comunque, sentitelo, De Luca, che aveva annunciato qualche giorno fa e poi l'ha messo in pratica ieri. È quello che ha fatto. Questa presentazione, che include anche il mio nome, mi ha dato l'opportunità, e io di questo godo molto, di querelare per diffamazione la Bindi. Non ha aggiunto Pinocchietta, personaggetto. Vabbè, sì. Ma io di questo dico, godo io molto. Dico che in un paese con 3 regioni, sì, mano alla criminalità organizzata, delegittimare la commissione antimafia è una scemenza grossa. Va bene, però adesso, però così vabbè, sembra fa, si fa, vedi che De Luca però l'ha querelata proprio pare per questo, perché facendo un'azione dell'antimafia si fa passare il messaggio che in qualche modo io sia con l'uso con i mafiosi, Milano, questo l'ha detto De Luca. Questo. Okay, ma tu che sei uno sportivo, sì, te lo ricordi il codice etico di Prandelli? Sì, sì. Prandelli sì. Mise un codice etico e disse: sì, chi viene squalificato per gioco scorretto non verrà in sì, nazionale. Poi valeva un po' così. Poi . Gli hanno squalificato uno che gli interessava in difesa. E infatti, il codice etico l'ho fatto io e lo dico io quando voglio. Ecco, appunto. Ma siete belli. Però dai, Saluzzi, tu che dici? Uguale. Come finirà sta cosa? Certo, è finita come dici tu, Paola, com'è che detta, a piatti in faccia, dai, ma su. No, sta finendo a piatti in faccia, perché è così. Finirà, qui vorrei poterti dare una risposta certa. Finirà che faranno la giunta e ci saranno 18 mesi di sospensione e governerà qualcuno per conto di De Luca, che ha vinto queste elezioni. Sì, sì. Che già così non è messa bene. Non è bellissima. Se De Luca saprà fare il presidente della regione, come ha fatto il sindaco di Salerno, è quello che tutti auspichiamo, no? Che vadano persone che sappiano sistemare, sappiano vorrei dire usare la ruspa, ma sappiano buttar giù e poi ricostruire, perché di questo ha bisogno quella regione. Adesso dico delle cose banalissime, ma è così. Cioè, se io fossi uno che vive lì, vorrei come che sia una regione che funzioni. Per favore, come questo chiaramente è l'auspicio per tutti. Intanto mi dicono povero Milan, mi scrivono povero Milan, non ti si vuole più manco Ancelotti. Ma guardate che Ancelotti, è stata una mossa elettorale clamorosa. Ma io l'avevo detto chiaramente, Ancelotti avrebbe detto no a urne chiuse, cioè si è mantenuto un po'. Adesso hanno detto anche che tornava Ibrahimovic. Adesso sì, ma poi se non arrivano è colpa di Pastorino. Dai. No, ragazzi, scusate, piuttosto sì. Emiliano che ha detto che lui ha un'idea di governo di Ulivo più Sel. Ulivo sì. più Sel, ma prima ci ha provato col 5 Stelle, adesso, sì. adesso col Sel. Sì, ha detto insomma, anche che vuol perdere 20 chili. Ha detto anche che vuol perdere 20 chili in due mesi. Mi sembra che sia impazzito. Emiliano, la presidenza della Regione Puglia, direi che mi ha dato la testa. È meglio perdere peso con calma. Comunque, insomma, colpa di Pastore. Vabbè, comunque, sì, esatto. Io ho la soluzione per il Milan, l'allenatore, ma ve la dico dopo il traffico. Siamo con Paola Saluzzi e Alessandro Robecchi. Sì, sì, sì, si è liberata. C'è, assolutamente, ce l'ho. Ieri ho detto ce l'ho, tra poco. Mamma mia, non ce la faccio più, e datemi questo benedetto traffico. 24 mattino. Alessandro Milan, quante bugie che si sentono dai giornalisti venduti, Lecchini, e dai politicanti del PD. Perché dicono che il Movimento 5 Stelle non ha vinto niente, proprio niente, perché? Perché non ha preso una regione. Ma se loro si sono assemblati, si sono messi insieme a 10-12 partiti, è ovvio, quelli camminano da soli, quelli vanno da soli. Vincenzo De Luca è un vincente, un cavallo di razza. Come vuoi che non lo presentino alle elezioni regionali con rischio di perdere? È solo un caso di opportunità politica. Intanto vinciamo. E poi la legge Severino. Sì, sì, vabbè, vabbè. Le leggi qua in Italia si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici. Poi vedremo, vedremo. Beh, su. Volevo dire che finalmente Renzi, dopo essere tornato dall'Afghanistan, ha parlato, come diceva mia nonna, ciuccio e presuntuoso. Ha perso 2 milioni di voti, ha perso una regione rossa da decenni e dice che meglio di così non potevano andare, tutto bene, non gli è servito a niente. È ciuccio e presuntuoso, come diceva mia nonna. Vabbè, stando alla nostra segreteria telefonica potremmo fare un golpe e mettere insomma, al potere Robecchi, Salvini, non so. No, io c'ho da fare, grazie. No, non ho detto Robecchi con Salvini. No, ma anche da solo, grazie. No, no. Ah, vabbè. Vabbè, comunque ce l'ho, eccola qua. Non viene Ancelotti? E mettiamo Blatter. Blatter alla io voglio Blatter, ci compriamo tutto e tutti, tutto e tutti, tutto e tutti. Ti piace? Paola, mettiamoci. Tra l'altro, la cosa bella di questa vicenda della FIFA, adesso sono tutti espertoni di calcio mondiale, tutti certo. che sanno il metodo certo. Blatter, il sistema Blatter, è che ci sono le lettere in cui si dicevano grazie per i 10 milioni di Mazzetta, dovresti darle questi 10 milioni, dovresti mandarli a questo qui, con nomi e cognomi, no? Tutto, cioè, facevano tutto così, Paola Saluzzi, no? Ma è una questione di cortesia, ma perché ripete? Esatto, ma no, cortesia. Ma infatti. Però, buona creanza. Era già un po' scritto, perché devo dire che con tutti i paesi che giocano a pallone e vincono, il Brasile, l'Argentina, sì. l'Italia, la Francia, il vicepresidente della FIFA e la federazione delle Cayman. Sì, è fantastico. Dove pare niente, ci siano 8 campi da calcio e 2 sì. squadre. Ma tante banche però. E tante banche. Ma giocano quelli che giocano, che lavorano in banca, capisci? Esatto. Sposati contro single, come si dice, ammogliati contro non sposati. Sì, comunque. Tante banche. Sentitelo qua, Blatter in francese che annuncia, è un momento storico, se volete, del calcio. Blatter che se ne va, c'è questa immagine di lui in penombra che imbocca una porta da dove esce una luce, sembra quasi l'ingresso in paradiso di Blatter. C'est mon profond attachement alla FIFA e a ses intérêts. Ces intérêts qui me sont très chers, qui m'a amené à prendre cette décision. Eccola qui la décision. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont toujours soutenu de manière constructive et loyale. Ringrazio. En tant que président de la FIFA. Et se ne va. Et qui ont tant fait pour le football que nous aimons tous. Vabbè. Je répète. Paoletta, se ne va. Je suis Catherine Deneuve. Quindi non è vero che se ne vanno sempre i migliori. Eccola. È così, guarda che no, è Robecchi, è un comunistone, di così graffia. Tira graffiate di qua e di là. E insomma, se n'è andato con tutto il suo pacchetto però di lettere e di ma io ti conosco, sai quelle cose. Sì, ma sì, noi, sì, sì, noi non ci conosciamo, quindi insomma vedremo che cosa succede, ma sì, ma nel mondo del calcio, questa di ma insomma, Milan chi viene? Ma non lo so, leggo oggi Mihajlovic, certo vorrebbero mettere qualcuno, vorrebbe mettere Brocchi, capite che Milan di Brocchi, cioè sono qualcosa che neanche cose che vanno neanche evocate, Milan di Brocchi, cioè capisci, già parti malissimo, cioè c'è qualcosa. Beh, una fotografia della situazione. Ho capito, non puoi dare Milan a Brocchi. Ma perché non darla a Prandelli? Prandelli, ma Prandelli. Che porta il suo codice etico. Ma no, non volevo dire questo. No, no. Non darla a Prandelli, dai. Non lo so, ma Prandelli non lo so. No, pare Mihajlovic. Mi sembra il classico tipino con cui Berlusconi litigherà dopo due giorni rinfacciando il fatto che viene da un paese di comunisti. Ma comunista, comunista, quello è un comunista, Mihajlovic. Me lo vedo così, dopo due giorni. Quello è un comunista, eppure non lo so, forse anche Rom. Andate a vedere, forse anche Rom. Me lo vedo Berlusconi con Mihajlovic a litigare così. Vabbè, dai, vi voglio lasciare ancora con un Crozza, un Crozza che ce l'ha con la Moretti, credo. Questa volta in tutto la Moretti ha preso 3 voti e tra l'altro tutti e 3 pensavano che fosse Nanni. Ora, per darvi un'idea di come è andata in Veneto, se non ci fosse stata la Moretti, Zaia avrebbe preso meno voti. Povera Moretti, dai, però adesso, ma veramente, Paola Saluzzi, fai questa solidarietà. Anzi, ti volevo chiedere questa cosa, ma sai che stanno uscendo tutti gli eletti ed è forse l'elezione con il minor numero di donne elette. In Liguria ci sono 3 donne elette in consiglio regionale su 30, 3 donne. Puglia 0. In Puglia nella giunta, ma nella tutto giunta. Il consiglio 0. No, nel PD. Negli eletti del PD. Emiliano ha 0 donne, per cui ecco perché voleva quella del 5 Stelle, probabilmente perché è una donna. Paola, che insomma è un bel passo indietro. Vuol dire che non si sono presentate le donne. Lo so, non sono state elette. No, non è esattamente così. Però un po' è così. È che per una strana legge della chimica, sì, quando si dice si presentano metà donne e metà uomini, per una strana legge della chimica poi le donne si depositano sul fondo delle liste. Ah, dici? Cadono perché pesiamo di più, forse. Forse sì, non lo so. O forse perché ancora quella rivoluzione lì è ancora da fare. È tutto ancora da fare. Però Paola, tu te la vedi come, cioè, sai che c'è la battaglia, c'è chi dice dovrebbero essere elette le parità di genere, c'è chi dice no, bisogna candidarsi tutti, libertà di candidarsi. No, non bisogna mandare la gente in fondo alle liste, però secondo me non bisogna essere presenti perché c'è un numero che dice che debbano essere presenti delle donne, no, perché questo vorrebbe dire siamo lì perché, no, siamo lì perché riusciamo a farci votare e perché le persone, le donne che si presentano sono donne da votare, questa è la cosa più esatto, perché certo. Se poi le donne sono la Moretti e la Paita. Ma no, no, Robecchi è uno che va direttamente al punto, non è che fa giri di parole, Non è che fa giri di parole. No, assolutamente no. Anzi, devo dire, quando lo sento, mi domando se Crozza in realtà non sia lui. Chi lo sa? Vabbè. Ma però vi voglio lasciare con questo, detto che poi Paola ci devi dire cosa fai oggi alle 3. E sentite il primo punto, uno dei primi punti del programma di Toti in Liguria. Attenzione, Toti ho detto, Toti. Che campi rom abusivi debbano essere sgomberati, poi con la ruspa, con la pala, con il piccone, con la cariola, col mezzo che riterrà più adatto, ma non c'è dubbio. Non c'è dubbio, eccolo qua. Non c'è dubbio. Oh, e vedi? Si è dimenticato il gas nervino. No. Come mai? No, smettila, Robecchi. Paola, dimmi che farai oggi. Allora, devono essere buttati giù. Cosa si dà in cambio? Allora sì, diventiamo come il resto d'Europa, diventiamo un paese dove ci sono delle case, dove le persone ovviamente se stanno in una casa devono cercare e avere un lavoro, certo. Vabbè, ma parlerai di questo alle 3? No, non penso che parleremo di politica. Insomma, parleremo di politica a tutto campo, soprattutto col conto alla rovescia che riguarda lunedì. Ah, a tutto campo Rom. No, vabbè, dai, vi devo salutare. Paola Saluzzi, Alessandro Robecchi, grazie.

cialtroneria. No, questo è il Crozza, il Crozza De Luca, lui la vede così, ma comunque ne parleremo più avanti. Ora voglio iniziare a raccontarvi una storia che è una piccola storia, se volete, e che non finisce certo sui giornaloni, è rimasta in provincia, ne ha parlato la Tribuna di Treviso, il Gazzettino Veneto. Ma a volte dalle piccole storie si può raccontare anche lo spaccato di un paese più grande. La vicenda riguarda un signore di 52 anni che faceva il dirigente amministrativo di una scuola e nel fare questo lavoro ha sottratto 197.000 euro dalle casse della scuola che amministrava. È stato preso, ha patteggiato, ha restituito tutto il mal tolto, ha detto che gli serviva per cure mediche, insomma ha restituito tutto, però ha patteggiato, è un reato penale, è grave. Risultato? L'avvocato che lo assiste ha fatto ricorso contro il suo licenziamento che era stato messo in pratica, licenziamento senza preavviso, e c'è un giudice del lavoro che ha reintegrato questa persona nel ruolo di dirigente amministrativo. La vicenda messa così sa e suona un po' come dell'incredibile. Comunque la vogliamo spiegare con l'avvocato che sta seguendo tutta questa vicenda, l'avvocato Michele Perissinotto. Buongiorno avvocato e benvenuto, grazie di essere con noi. Buongiorno Tornina. Voglio anche salutare un onorevole del PD, deputata Simonetta Rubinato, che di questa vicenda ha detto bisogna andare avanti e farà un'interrogazione parlamentare. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi, Rubinato. Buongiorno. Allora, avvocato Perissinotto, tra l'altro lei ha seguito sia la vicenda penale, mi sembra di capire, e anche la vicenda del reintegro, no, del suo assistito. Intanto, sì. Allora, i dati sono questi, cioè questi soldi li ha sottratti, adesso al di là di tutto li ha sottratti per motivi che dice lui, ma ha patteggiato e quindi gli aveva rubati questi soldi, no? Questi soldi li aveva sottratti e poi li ha restituiti. Circostanza che non succede spesso. Li ha restituiti prima poi della fine del procedimento penale. Perché è stato preso, insomma, perché è stato beccato, ecco, li ha restituiti. Ma molti si beccano i soldi e poi non li restituiscono, no? Vabbè, diciamo, lei dice come attenuante, dice almeno li ha... questo ha fatto, voglio dire, anche la differenza per quanto riguarda l'applicazione della pena, certo. Come patteggiamento, cioè quanto è stata la pena? 2 anni di reclusione, pena sospesa? Esattamente. Com'è possibile che questa persona sia stata reintegrata? È vero che il motivo è che la pubblica amministrazione non si è costituita parte civile nel procedimento penale? Questo è stato il motivo per cui... No, dottor Milan, direi che questo non c'entra. Nel senso che la costituzione di parte civile riguarda il procedimento penale dove l'amministrazione non ha ritenuto di costituirsi in quanto era già stata ristorata, voglio dire, del danno subito attraverso appunto la restituzione di soldi. Esattamente, la restituzione dei soldi. I motivi, voglio dire, sono stati diversi, insomma. E nel caso di specie non sono nemmeno motivi di merito, cioè il difetto di giusta causa. Sì. Cioè il giudice non ha valutato nella propria ordinanza se il reato commesso o il comportamento tenuto dal dipendente, dal infedele fosse meritevole o meno del licenziamento. Si è fermato prima, nel senso che ha ritenuto che l'ente preposto per il licenziamento non avesse rispettato il termine entro i quali il procedimento disciplinare deve concludersi e quindi deve essere irrogata la sanzione. Sì, però voglio dire, sono tutte questioni, per carità, che in un paese garantista, insomma, va bene, uno si può appellare a tutto, ma la cosa che ha dell'incredibile, avvocato, è che qui c'è un dipendente della pubblica amministrazione che ha rubato 197.000 euro, ha ammesso, ha patteggiato, ha preso 2 anni, è stato licenziato per questa cosa, è stato reintegrato da un giudice del lavoro. Allora, in questo caso mi permetto, secondo me il mancato rispetto dei termini entro i quali il procedimento disciplinare doveva concludersi, quindi doveva essere emanato il decreto di licenziamento, è una regola, è una legge. E vabbè, infatti l'ha reintegrato, però infatti l'ha reintegrato. Ma tra l'altro questo signore adesso riprende il posto. Allora, questo signore ha richiesto, voglio dire, questo dirigente, ovviamente in ossequio a quello che è stato il dettato dell'ordinanza, che non poteva essere, cioè le conseguenze che dell'ordinanza non sono conseguenze che il giudice ha preso discrezionalmente, perché essendo stato annullato il licenziamento necessariamente lui deve essere reintegrato nel posto del lavoro. E non solo, gli devono dare gli stipendi arretrati, gli stipendi certamente, che non... certo, ma questa è una conseguenza logica. Hai capito, ovviamente. Ma avvocato, lei giustamente dal suo punto di vista è una vittoria, e lo posso capire, lei si può mettere nei panni di un cittadino, adesso certo, ascolteremo anche l'onorevole Rubinato. Facevo un ragionamento, io nei panni del cittadino, allora, per quanto riguarda ovviamente la mia professione, non potevo che far altro che difendere, e questo è giusto, è legittimo. E questo è andato. Nei panni del cittadino potrei essere forse arrabbiato per due motivi. Un motivo è questo sostanziale, anche se nel caso di specie non si tratta però, voglio dire, di una sentenza sbagliata, perché la sentenza è giusta. La valutazione del giudice non è una valutazione di merito. No, ma sa, voglio dire, errata. Una sentenza, come si suol dire, non si giudica mai. Dal punto di vista della legge, il giudice del lavoro avrà applicato, come dice lei, il fatto del mancato rispetto di termini di legge. E quindi ha reintegrato. Non... Questo motivo di ribellione nei confronti di questa sentenza, però mi permetto di dare una lettura anche diversa, nel senso che io come cittadino sarei molto più arrabbiato, non tanto per una sentenza giusta ma sbagliata nella sostanza, quanto per l'inefficienza della pubblica amministrazione. Questo è un altro punto, la quale non ha rispettato i termini. Esattamente, quindi nella condizione di poter far valere il proprio diritto e quindi la difesa del bene comune non è riuscito a farlo. Ma certo, ma lei, avvocato per il Sinota, non ha fatto altro che inserirsi negli errori, se vuoi, della pubblica amministrazione, sfruttarli a vantaggio proprio del proprio cliente e far reintegrare una persona dal punto di vista della legge a tutti i crismi della regolarità, come succede spesso in Italia. Però, onorevole Rubinato, perché lei ha deciso di portare questo caso all'attenzione nazionale, vuol fare un'interrogazione parlamentare? Sembra abbastanza incredibile, non è che vogliamo rifare un processo che è stato fatto. Sì, è una storia di ordinaria ingiustizia vista dal punto di vista dei cittadini e merita sicuramente di accendere un riflettore del Ministero per capire anche questo aspetto di cui parlava adesso l'avvocato Perissino. Allora, è evidente, sul principio siamo tutti d'accordo, mi pare di aver capito anche il collega Perissinotto. Chi si macchia di un reato come questo, molto grave, e per 12 anni sottrae somme alla pubblica amministrazione di cui è dipendente, pagato dai cittadini per svolgere il suo lavoro con dignità e decoro, ecco, questa persona sottrae queste somme, viene scoperto, ammette di averlo fatto, restituisce, in forza della restituzione, che non è un pentimento appunto perché è stato scoperto, ottiene anche un patteggiamento della pena, questa persona viene rimessa al suo posto di lavoro a fare esattamente quello che faceva prima, mentre il dirigente che l'ha denunciato, sto parlando del dirigente scolastico in questione, che si è preso la responsabilità di farlo, che ha fatto tutta una serie di verifiche prima di denunciare questa persona, si trova nella condizione di vederlo tornare al lavoro. Sì, e magari essere un suo superiore, magari non so. Esattamente. Oltre ai cittadini che sono quelli che si stanno sollevando, sono quelli che attraverso anche amministratori locali, attraverso lo stesso altro personale pubblico della scuola mi hanno sollecitato a sollevare il caso. Ecco, ma lei con chi potrebbe, tra virgolette, porre il caso dal punto di vista sia con mi sembra più con il Ministero della Funzione Pubblica che con il Ministero dell'Istruzione. Non ma lo io so credo che l'interrogazione può essere rivolta sia al Ministero dell'Istruzione sia al Ministero della Funzione Pubblica. Sì, in qualche modo, ma insomma è questo molto più marginale, il Ministero della Giustizia, perché pare anche a me, bisogna leggere la sentenza, ma da quello che dice l'avvocato, il giudice ha applicato una legge, ha applicato quello che per noi appare un cavillo probabilmente formale, ma che nella sostanza c'è, e quindi c'è anche un altro aspetto che io vorrei fosse verificato mettendo i riflettori su questa vicenda, e cioè quello normativo. Se le norme debbano anche essere cambiate, cioè questo termine entro il quale deve essere irrogata la sanzione è stato dolosamente o colposamente non rispettato da qualche dirigente dell'ufficio scolastico. Ci sarà anche lì un qualche o c'è anche lì da fare un intervento normativo per chiarire, perché deve essere chiaro: viene condannato per un fatto penale per aver sottratto somme alla pubblica amministrazione, non ci possono essere cavilli formali per per cui quella persona. Io vorrei anche capire chi è stato. Avvocato per i Sinotta, è vero che non lo deve scoprire lei, però ce lo può dire visto che ha seguito tutto il caso. Ce lo deve dire, mi scusi, il governo nella risposta all'interrogazione. Sì, però intanto vorrei capire, magari per i Sinotta già ce lo può dire, chi è stato colpevole nell'aver fatto scadere dei termini? È stato il. Io dico che l'ente, voglio dire, che ha emesso il provvedimento è l'ufficio scolastico regionale per il Veneto. Perfetto, quindi lì all'ufficio. Io dico alla collega che tra le altre cose siamo dello stesso foro, ci conosciamo anche personalmente. Ecco, io questo non lo sapevo. Che avvocato anche in altri la sedi, voglio dire, la mia stima, deve rendersi anche conto che uno dei problemi, allora qui non siamo in presenza di un voto legislativo perché la norma c'è, d'accordo? Siamo infatti ho parlato di un'eventuale modifica. Ho sentito l'avvocato. L'unico che oltre siamo in presenza, voglio dire, di una procedura che non è stata rispettata e questo ha determinato, diciamo, però vogliamo richiarirlo, non è stata rispettata all'interno dell'ufficio regionale scolastico, cioè qualcuno o sbagliando o per distrazione o lo vuole capire dico, no certo, perché dico che il provvedimento finale da lì doveva arrivare quindi lei onorevole Rubinato vuole anche capire se c'è stato un dolo nell'aver fatto scadere questi termini. Dolo o una colpa, i dirigenti hanno anche questa responsabilità. C'è stato probabilmente qualche problema dovuto anche al fatto che il dirigente dell'ufficio scolastico regionale c'è stato vacanze per qualche mese. Ci sarà stato qualcun altro che portava avanti. Però non è una giustificazione. Ma anche perché una vicenda del genere deve funzionare sempre. Anche perché una vicenda del genere è finita sui giornali, cioè si sapeva, non è che voglio dire qualcuno avrà chiamato l'ufficio regionale scolastico a dire avete visto? Con voi. Infatti qui non c'è da far altro come parlamentare, che non ho, è il governo in questo caso che sovraintende la pubblica amministrazione, non ho altro strumento a disposizione e lo sto impiegando perché è sacrosanto in questo caso impiegarlo e trovare risposta, che chiedere a chi sovraintende alla pubblica amministrazione, cioè il governo, di fare chiarezza, di capire quali sono le responsabilità in campo per essere arrivati a una conclusione del tutto paradossale e che potremmo definire agli occhi dei cittadini come un vero e proprio scandalo. Ma no, è scandalosa sicuramente, però io vorrei concludere e capire così. Avvocato per il Sinotto, le rifaccio la domanda, cioè è chiaro che lui è stato reintegrato e quindi ha diritto anche agli stipendi, ma in questo momento, cioè è reinsediato al posto nel quale... No, noi abbiamo attivato, voglio dire, la procedura che prescritta per la legge, quindi abbiamo inviato via PECA a tutti gli enti preposti che si occupano tra virgolette del caso e quindi devono decidere la disibilità da parte del dirigente di ovviamente rientrare al lavoro e quindi non so, magari nel giro di è tutta una questione di burocrazia, non ci hanno ancora chiamato, ma insomma il dirigente è scontato però che rientra, sentenza avrebbe titolo ovviamente per presentarsi a scuola e certo, per rioccupare, perché la sentenza e l'ordinanza dice il proprio posto di lavoro. Certo, però e quindi avvocato dal punto di vista della legge non fa una grinza, ma sinceramente ma con che faccia rientra in quella scuola dove ha rubato 197.000 euro e tutti lo guardano e tutti magari dipendono da lui e va tutto bene così? Dottore, io faccio l'avvocato e quindi ripeto, io adesso sto parlando in questo ruolo e va bene così. E non esattamente, per me è andata come doveva andare. La causa è finita. No, non è finita. No, è finita. C'è questa ordinanza, poi ovviamente può essere impugnata nel termine di 30 giorni, poi ci sono i vari gradi del giudizio, cioè è una partita aperta, però diciamo che la motivazione del giudice, non essendo una motivazione, voglio dire, nel merito, ha capito, della vicenda, ma essendo una motivazione che è relativa a un'eccezione, voglio dire, preliminare di questa decadenza, potrebbe reggere anche negli ulteriori gradi di giudizio. Allora, staremo a vedere, nostra abitudine è quella di seguire le storie, quindi anche onorevole Rubinato, seguiremo, insomma, ce la faccia avere questa interrogazione parlamentare e quale sarà la risposta del ministro, di chi lei interroga. Intanto io vi ringrazio avvocato Michele Perissinotto e l'onorevole Simonetta Rubinato per questa, ripeto, secondo me piccola storia di provincia, se volete, ma che racconta poi lo spaccato di un paese, perché è incredibile come un dirigente amministrativo di una scuola che ha rubato 197.000 euro, ha ammesso di averli rubati una volta che è stato preso, li ha restituiti in sede penale, per questo ha patteggiato, è stato condannato a 2 anni pena sospesa, è stato licenziato, ma poi, come ci ha spiegato il suo avvocato per il Sinotto, non sono stati rispettati dei termini dalla pubblica amministrazione, quindi il giudice del lavoro ha reintegrato al proprio posto di lavoro questo dirigente. Va bene così, è l'Italia bellezza se volete, ma dopo, dopo la pubblicità, tre minuti, rientriamo con l'onorevole Di Lello della Commissione Antimafia per parlare di questa vicenda di Luca Rosi Bindi. Se volete anche le vostre chiamate all'800 24 00 24. Allora, sono le 8:38 minuti e tra gli ascoltatori Salvatore da Catania ci ha chiamato, credo, per la storia che abbiamo raccontato prima. Salvatore? Sì, sì, grazie, buongiorno. Buongiorno. Beh, provocatoriamente direi che andrebbe arrestato il giudice o quantomeno seriamente allontanato dal suo lavoro e anche la persona o le persone che hanno ritardato o non fatto il ricorso, ma pare, mi pare di aver capito. Sa, il giudice del lavoro ha applicato la legge, forse effettivamente sì, chi sì, stabilire vero. Chi nell'ufficio regionale scolastico del Veneto non ha rispettato i termini. Non si possono ascoltare queste decisioni, non si possono ascoltare, non si possono sapere, non si possono conoscere, sono cose troppo assurde. Prima o dopo arriverà una rivoluzione francese in Italia. Addirittura lei ha salvato la rivoluzione francese lanciata da Salvatore da Catania. Va bene, intanto la ringrazio. Abbiamo raccontato la storia di questo dirigente scolastico che ha rubato circa 200.000 euro, è stato beccato, sospeso, licenziato e poi il giudice del lavoro l'ha reintegrato perché qualcuno non ha rispettato i termini disciplinari nei suoi confronti. Succede in Italia. Parliamo invece di politica, come abbiamo preannunciato, e cioè nel Partito Democratico che succede? Volano gli stracci adesso. De Luca aveva promesso, De Luca eletto in campagna, aveva promesso, dopo che Rosi Bindi l'aveva messo tra gli impresentabili, la Commissione Antimafia, De Luca lo aveva detto subito venerdì, uno degli ultimi giorni di campagna elettorale, l'ultimo per la verità. Questa presentazione, che include anche il mio nome, mi ha dato l'opportunità, e io di questo godo molto, di querelare per diffamazione la Bindi. Così aveva detto De Luca. Per la verità Rosi Bindi a urne chiuse, lunedì è andata anche a Piazza Pulita da Corrado Formigli e ha detto, cosa che poi ha ribadito anche al Corriere, mi aspetto un risarcimento dal mio partito. Crede davvero che Renzi le chiederà scusa? Guardi, non lo so se lo farà, io però sento di poter dire che quello che è successo nei confronti della mia persona merita un risarcimento. Allora, io saluto l'onorevole Marco Di Lello, capogruppo del Partito Socialista Italiano e anche segretario e sede in Commissione Antimafia. Onorevole Di Lello, buongiorno. Eccoci buongiorno, qui. Buongiorno Milano e tutti i radioascoltatori. Bel pasticcio questo, Beh sì, infatti io non so questa richiesta di scuse francamente della Presidente. Io da commissario dico che siamo noi, Commissione Antimafia, a dover chiedere scusa all'Italia e al Paese perché in qualche modo abbiamo leso, credo, la credibilità e l'autorevolezza della Commissione. Addirittura, causa... lei dice, beh, lei io... dice così. Beh, io la vedo così perché non fa certo bene un governatore, quello era un Presidente dell'antimafia, come dice lei, volano gli stracci, no, non va bene, noi le istituzioni le dobbiamo salvaguardare, le dobbiamo tenere fuori dalla contesa politica, l'antimafia non può trasformarsi mai in uno strumento di lotta politica. Sai che tra l'altro la querelata De Luca, querelato la Bindi per diffamazione, attentato ai diritti politici costituzionali e abuso d'ufficio, scrive così il Corriere, cioè un'accusa ancora più grave della sola diffamazione, ma perché, cosa ci vuole spiegare che cosa è successo? Lei già ha detto, quando la Bindi ha dato i nomi, ha fatto tutto lei e il suo staff, cioè non vi ha coinvolto in Commissione Antimafia? No, noi abbiamo saputo dei nomi quando l'avete saputo voi della stampa, perché il suo principale problema era evidentemente evitare fughe di notizie. Noi abbiamo deciso, come era forse inevitabile in realtà tre settimane fa, di dare attuazione a quello che è previsto nel codice dell'antimafia, cioè di segnalargli, di verificare perché i partiti abbiamo candidato persone non in linea con il codice, ma in realtà quello stesso codice presuppone poi che i partiti diano motivazioni e spiegazioni sul perché. Sì. È evidente che se tu una segnalazione la fai l'ultimo giorno a poche ore dalla campagna elettorale, privi anche i partiti della possibilità di risponderti e, come si dice in gergo, di controdedurre. Sì. E invece è arrivato alla fine, sì, però mi faccia capire perché avete discusso per giorni e giorni, cioè lei sta dicendo invece che i nomi li ha saputi quando li abbiamo saputi tutti noi, e di che avete discusso? Di che avete discusso per giorni e giorni? Abbiamo discusso di criteri, ma in realtà noi non è che dovessimo fare un grandissimo lavoro, perché noi dovevamo avere la documentazione dalle prefetture, farla verificare dalla procura antimafia e dopodiché avere un elenco e verificare noi stessi la rispondenza. In realtà il lavoro delle prefetture è arrivato qualche settimana di ritardo, perché noi eravamo convocati il martedì precedente la chiusura della campagna elettorale, sostanzialmente per prendere atto e divulgare l'elenco, quindi a 4 giorni, certo, eravamo già quasi fuori tempo massimo, ma tutto sommato c'erano ancora alcuni giorni per poter discutere e dare anche ai partiti la possibilità di controdedurre. E invece la Presidente Martini ci ha detto che lei non era in grado, perché le prefetture avevano trasmesso in ritardo, perché i giudici non se ne erano accorti. Io ancora adesso non so, e domani glielo chiederò formalmente, chi è il responsabile di un ritardo così grave, anche perché ne chiederei immediatamente le dimissioni, francamente, perché se è un prefetto, l'ufficio, la presidente, qualcuno ne deve rispondere. Se si perde, ma in Italia si sa che nessuno risponde alla responsabilità. Però lei dice abbiamo fatto una brutta figura, ma mi faccia capire, una brutta figura perché? Cioè, quindi andando più in profondità, secondo lei... Arriviamo al martedì, non ci sono i nomi, si arriva all'ultimo momento utile, il venerdì, e ci convoca semplicemente per comunicarci che stava andando in conferenza stampa e contemporaneamente alla sua conferenza stampa ci avrebbe dato. Ma che è stata, inaccettabile questa modalità. Ma che è stata una vendetta tra Rosy Bindi e alcuni del suo partito, tra Rosy Bindi e voler colpire Renzi? Cioè, Milan, io mi rifiuto di crederlo, perché ho troppo senso delle istituzioni, troppo rispetto delle istituzioni. Certo, la percezione qui in Campania è stata di uno sgambetto. Tranello, e infatti il paradosso è che ha detto che ha sortito poi un effetto uguale e contrario, perché è scattato un meccanismo di solidarietà nei confronti di De Luca, che è sembrato quasi una vittima, l'agnello sacrificale di una lotta che non lo riguardava. Ora io non voglio dire che sia così, ma la percezione è stata questo, e dunque in ogni caso c'è un bonus nell'autorevolezza dell'antimafia. Ma lei arriverebbe a pensare che Rosy Bindi non è più in grado di poter essere presidente della commissione antimafia dopo questa vicenda? Guarda, quindi ci ha detto che ha rotto il rapporto di fiducia con l'ufficio di presidenza. Per quanto mi riguarda, anche io faccio fatica adesso ad avere fiducia. Se lei preferisce i giornalisti a me, francamente, insomma, io non sono un commissario a sua disposizione, ecco. E che fa? Quindi o se li mette lei o se ne va lei? Domani ne discuteremo approfonditamente in ufficio di presidenza, capiremo chi ha sbagliato, come, e ciascuno si deve assumere le sue responsabilità. Ma De Luca, al di là di tutto, la denuncia è una questione molto grave. Cioè, secondo lei De Luca, lei fosse stato in De Luca, l'avrebbe querelata? No, guarda, io non ho mai querelato nessuno in vita mia, figuriamoci se l'avrei fatto in questa occasione. No, questo no. Rimane la questione degli impresentabili. Sa che anche oggi Cantone fa un'intervista a Repubblica, parla, ora è caduta la linea. Vabbè, adesso lo recuperiamo, magari gli facciamo un'ultima domanda su Cantone. Intanto sentiamo, però andiamo indietro un po' sulla storia di prima. Ci sono Antonio da Caserta e Giancarlo da Rimini, io li vorrei sentire, però siccome vogliono parlare della questione della scuola, magari recuperiamo prima Di Lello, gli facciamo un'ultima domanda. Se la linea la recuperiamo e poi svoltiamo su questo. Ce l'abbiamo, ecco qua. Di Lello è caduta un attimo la linea, avevo un'ultima domanda, è con noi Di Lello? Sì, eccoci. Il Cantone, presidente della commissione dell'autorità anticorruzione, dice oggi a Repubblica, fa la prima intervista, a dire questa della vicenda degli impresentabili è un errore, perché dare il bollino blu di impresentabile a qualcuno, che vuol dire poi dare il bollino invece di merito a quelli che non sono citati, che dicono noi invece siamo presentabili, cioè è proprio una cosa sbagliata in politica. Lei che ne pensa? Sì, io lo condivido. In realtà, ripeto, da un lato c'è un codice che doveva servire e dovrebbe servire come monito ai partiti: fate maggiore attenzione per determinate candidature, per determinati reati. Sì. Dall'altro è evidente che non può aspettare all'antimafia mettere il bollino. E se vuole la mia opinione, con la presunzione di conoscere un po' il territorio campano, c'erano dal mio punto di vista candidati che avrebbero meritato ben altro tipo di censure, e invece nella lista non c'erano. C'erano invece nella lista persone che probabilmente lo avrebbero dovuto essere. Ho capito, ma allora è stato un pasticcio dall'inizio alla fine questo, no? È E se almeno fossimo stati in condizioni di dare un contributo, l'avremmo dato volentieri. E invece io perciò me la prendo con la Bindi, perché se ne è assunta fino in fondo la responsabilità e ora ne deve rispondere. Ne deve rispondere. Va bene, staremo a vedere come va a finire questa vicenda politica. Domani c'è questo faccia a faccia anche tra di voi e vi chiarirete all'interno della commissione antimafia. Intanto la ringrazio l'onorevole Marco Di Lello, del Partito Socialista Italiano e segretario della commissione antimafia. Allora, gli ascoltatori, dopo il traffico, non mi sono dimenticato, ci sono, andiamo al traffico e poi vengo da voi. Eccoci qua, allora inizierei da Rosalba che ci chiama da Salerno, dalla Salerno di De Luca. Rosalba, buongiorno. Salve, buongiorno, sono Salba. Sì. Niente, volevo dire, innanzitutto mi associo a quello che ha detto l'onorevole Di Lello, perché di gran parte di quello che ha detto sono d'accordissimo. Va bene. Ovviamente sono di parte, sono nella città di Salerno e De Luca questa città l'ha sconvolta. Non saranno tutti per De Luca a Salerno, però lei è per De Luca. Io sono di parte, sì, sono per De Luca e sono convinto che De Luca farà non bene, benissimo. Vabbè, e questo lo vedremo, se non decadrà o se non verrà, vedremo. Ma ha fatto bene a querelare alla Bindi, secondo lei? Secondo me ho fatto bene, perché la Bindi, la commissione dovevano quantomeno risolvere prima se c'erano questi problemi effettivamente. Direi, come dice Bersani, cosa hanno fatto prima? Hanno pettinato le bambole? Usa la battuta bersaniana. Ricordo che De Luca ha rinunciato alla prescrizione in merito a questa faccenda. Sì. E se avesse avuto qualche problema, penso che... Certo. C'è da dire, Rosalba, che il fatto che un governatore come primo atto vada in procura a denunciare Rosy Bindi, peraltro l'aveva detto, cioè il presidente della commissione antimafia e del suo stesso partito, non dà un bel segnale, poi per chi per come la volete vedere non dà un bel segnale, certo, di un partito democratico anche un po' non vorrei dire allo sfascio, perché sicuramente come voti è ancora il primo partito in Italia, però non è certo una bella vicenda vista dall'esterno. Comunque lei dice fa bene. Vorrei ripartire allora da Antonio da Caserta. Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo dire, sì, interveni sulla questione dei dirigenti. Della scuola, sì, benissimo. È emblematico che lei ha citato, che è un problema che riguarda non solo la scuola, tutte le dirigenze anche a livello amministrativo. Da noi, io sono della Campania e questi problemi li viviamo tutti i giorni nei piccoli comuni, nelle province. Chiunque fa un abuso, poi gli amministratori, i responsabili dirigenziali non sanno applicare la legge in favore dei cittadini, perché non sono preparati. Adesso stanno combinando un altro casino nella scuola, perché questi dirigenti, specialmente nel meridione, nelle nostre zone, sono dirigenti che hanno vinto un semplice concorso per raccomandazioni politiche. Vabbè, questo noi siamo nella scuola, non ci crede. Non ci credo, sicuramente sarà così, non per tutti, moltissimi l'avranno vinto in maniera molto onesta e totalmente cristallina, però lei dice, Antonio, invece no, è quello il problema, alcuni sì. Non c'è in Italia una scuola dirigenziale. A livello delle ASL, quando hanno fatto la riforma sanitaria, hanno messo persone che non capivano niente di amministrazione. Però qua, Antonio, qui non è neanche da non capire, è il fatto, lo ricordiamo per chi non avesse ascoltato la storia iniziale, di un dirigente scolastico, un dirigente in provincia di Treviso, che ha rubato 197.000 euro, beccato, lo ha ammesso, è stato licenziato per questo, ha patteggiato 2 mesi di carcere e evidentemente all'ufficio regionale scolastico del Veneto qualcuno non ha fatto scattare i termini, non ha rispettato i termini per la sanzione disciplinare e quindi il giudice del lavoro l'ha reintegrato. Il giudice del lavoro, io dico, molti dicono il giudice del lavoro ha sbagliato, ma il giudice del lavoro ha applicato la legge. C'è una legge che dice che bisogna rispettare dei termini da parte di un dirigente dell'ufficio scolastico per far scattare le sanzioni disciplinari. È stato rispettato questo termine? No. E il giudice dice 1+1=2, non è stato rispettato e quindi il licenziamento è basta, è decaduto, è fasullo, va rimesso. E questo è successo. Ci sarà, qui non è incompetenza, c'è qualcuno che si è distratto all'ufficio regionale scolastico del Veneto, c'è qualcuno che non se n'è accorto. E certo, è una cosa grave, non è che mica dico di no. Giancarlo da Rimini, ce la fa a essere breve? Pronto, sì, buongiorno Milan. Dica, Giancarlo. Niente, io le volevo chiedere se un rapinatore di banche, un ladro di automobili, uno svaligiatore di appartamenti, viene beccato col malloppo, se restituisce tutto, è a posto? No, no. No, perché infatti si è preso 2 anni di carcere appena sospesa. Però è stato reintegrato nel proprio lavoro. Quindi questo è un invito ad andare a rubare, perché tanto nella peggiore delle ipotesi restituisce tutto e siamo già a posto così. Capisco il paradosso, Giancarlo, e posso capire anche la rabbia comprensibilissima che la spinge a dire questo. Allora, come sapete, noi abbiamo anche una segreteria telefonica che risponde al numero 02 4652 4492, la nostra segreteria telefonica, dove potete dire ciò che volete. Vincenzo De Luca è un vincente, un cavallo di razza. Come vuoi che non lo presentino alle elezioni regionali con il rischio di perdere? È solo un caso di opportunità politica. Intanto vinciamo. E poi la legge Severino. Sì, vabbè. Le leggi qua in Italia si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici. Poi vedremo. Su. Io mi domando solo una cosa, no? Come fa Salvini con tutte quelle maglie? Stamattina sulla Corà, Russia in azione su una maglietta. Ma è una cosa inaudita, guarda. Volevo dire che finalmente Renzi, dopo essere tornato dall'Afghanistan, ha parlato, come diceva mia nonna, ciuccio e presuntuoso. Ha perso 2 milioni di voti, ha perso una regione rossa da decenni e dice che meglio di così non potevano andare. Tutto bene, non gli è servito a niente. È ciuccio e presuntuoso, come diceva mia nonna. Io non ho i forconi, ma ho 3 matterelli. Se qualcuno ne avesse bisogno, 2 li metto a disposizione. 1 me lo tengo. Se organizzate, chiamatemi. E vabbè, c'è di tutto. È la nostra segreteria, 02 4652 4492. Ci troviamo domattina 6:30 puntuali.